poi vado via. Un MB più 4 con il baracchino, quello base grande, come la modulazione? Bellissimo, mi sento abbastanza bene. Ok, ascoltami, ma questo sta strappando, sta funzionando bene, l'eco come va? Perché lui ci ha detto poco fa che stava funzionando male. Ah boh, non lo so, io avevo delle regolazioni fatte proprio da Luigi e funzionava bene, poi non lo so tu come l'hai toccato, e sia l'eco che il vabbè, la potenza la devi tenere non a manetta, la devi tenere a metà, tutte e tre a metà le devi tenere, guarda, per andare bene, tutte e tre a metà e tu sei a posto. No, meglio, stava strappando il radio che non si sentiva bene, e allora siccome ho guardato effettivamente ho visto che stava funzionando male, allora ho preso un aperto dietro e ho dato una passata di CDC dentro, dove schiacci per parlare, capio? Sembra che vada bene adesso, già va bene, ti ascolto, non c'è problema, capito? Quindi questo va bene allora così. Adesso hai fatto, si è abbassata e si è alzata la modulazione della radio. E come si è alzata e si è abbassata? Sto toccando. Allora così è a 2, guarda. Così è a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vabbè, sono in cuffie, così a 10 è troppo alto. No, come ha iniziato a alzare, dopo un pochettino stava fischiando, stava rischiando, non andava bene. No, sono io in cuffie, non innesca nulla, no. Sono io in cuffie, quindi mi faccio un rientro, capito? Faccio un rientro, non so, così è chiuso. Ora, ecco qua. E così è a 2, dai, a 2, a 3, bene va. Ma per me si fa sempre abbastanza chiaro, va bene. Scappa di orologio, dai, va bene che va bene. È un MB più 4 con quel baracco grande, base, che non avevo ancora provato, ero senza batteria, stamattina ho comprato la batteria e gliel'ho attaccato. MB più 4 come quello che ho io, dai. Ia. Il tuo è pronto, però la modulazione è una grandissima gaggata. Ho paura, sia partito il modulatore lì. Accende, riceve, tutto perfetto. Però la modulazione è tutta gracchiante, tutta. L'ha provato, eppure lì non ha toccato niente. Chissà cosa gaggata ha combinato. Che cosa vuoi dire? Non so. Non è una prepare l'idea, ho già combinato, non te lo so dire. Se non si riesce a mettere a posto il modulatore, il tirabili in gomme di vostra mano, non se ne trovano pezzi di quella radio, nel modo più assoluto. Già ho fatto fatica a trovare quei componenti che ha sostituito, che non era uno, ma erano più di uno. Per poterli rimettere dello stesso valore ha fatto salti mortali. Immaginati tu se non riesci a togliere i piedi con la radio, praticamente la radio esce tutta tutta quanta così, mi capito? Quindi si suppone che sia andato in corto il modulatore, ma vediamo. Ok, diciamo, vediamo, dai. Aspetta, vado un attimino sul 5, perché loro erano sul 5 e forse non mi hanno sentito di passare qua sul 10. Aspetta, vado 2 secondi sul 5, dai. O se no passo un attimo sul 5. E chi c'è sul 5? C'era Luigi che stava piantando una radio e adesso mi ricordo chi che stavo parlando. E stava piantando una radio a Mauro, che forse gli ho capito io chi è. Ma radio baracchino? E radio come questa che c'ho io, una 48 che stava piantando, e ho capito forse chi Mauro è pure. Vabbè, dai. No, io mi sono già pronto, sto aspettando la signora e poi vado, dai. Vai su 5 o Mauro, al limite ci sentiamo, ci aggiorniamo stasera quando rientro, va. Se non rientro tardi, capito? E ok, macchina. Vediamo, ci sentiamo stasera, non c'è problema. E via. E tanto anch'io devo uscire un attimo a mettere dei gaiolo di gasolio, così almeno ce l'ho pronta per domani mattina, non domani mattina. Passo direttamente, buonanotte. Ti conviene, perché poi domani è una giornata di caccia, di coso, e c'è un sacco di gente, capito? Riesci a vedere se aumenta così, 1, 2, 3, 4. Che qua. Va bene, dai, ho tirato appena appena sulla potenza, cambio. Se ne hai due alla 48 ti conviene fare così, Mauro, ti conviene fare così, non contare su quell'altra, perché quell'altra sì, adesso riceve bene, tutto a posto, accende, però la trasmissione non va bene, quindi ti conviene metterti quella là, capito? Una in macchina e una a casa. Quella più forte magari te la metti a casa e quella meno forte te la metti in macchina, capito? Sì, infatti, no, figlia. No, ma possiamo portare tutte e due così uno, cambi, chiudere una, mettere l'altra, capito? No. Se c'è da staccare cavi e cavetti, no, non me la fotti nuda. Non mi interessa, va. Io baracchini ne ho, ma solo per staccare cavi e cavetti e stare lì a metterla in macchina e poi toglierla, rimetterla qui, balla e poi vada, non mi interessa, non la metto in macchina io. Ho messo l'altra volta giusto per fare una prova e boh, capito, ma... No, non hai capito, non in macchina, non qui a casa. Ci avete detto di prendere un deviatore in modo che le lasciate a casa, che sento da tutte e due, però poi rimettere provo su uno o sull'altra, no? Vabbè. Già va bene allora. Va bene, dai, ok, io mi sto preparando, sono già pronto, sto aspettando che si prepari, ma mi do una sistematina e vado, dai. Ci sentiamo, Mauro, allora, salutami Luigi nel canale 5 e ci sentiamo semmai stasera quando rientro, dai, ok. Ok, va bene, io ci ho messo.